Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Innanzitutto la zanzara è diventata un buon programma dove ti prendono dal conduttore, il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? E in tutti i sensi. Allora, ieri il Presidente della Repubblica, caro Parenzo, ha tuonato contro l'antipolitica. Ha detto che in Parlamento sono arrivate minacce, intimidazioni fisiche e che l'antipolitica è una patologia eversiva. Adesso va bene tutto, per carità, sono sempre discorsi alti quelli del Presidente della Repubblica, però uno non può andare, non può parlare per, no, senza indicare i colpevoli. E siccome lui ovviamente ce l'ha con 5 Stelle, in parte con la Lega, o lo dice chiaramente oppure non parla. Cioè, non è possibile che un presidente faccia la parte che fa un ospite in un talk show contro l'antipolitica. C'è anche l'antipolitica, c'è anche, ci sono anche dei partiti presenti in Parlamento che tuonano contro la politica, che fanno come dire, attività politica in questo modo, e il Presidente della Repubblica li deve lasciar perdere questi partiti, cioè, sono legittimi, prendono i voti e dunque se vuole partecipare alla discussione politica contro Grillo, contro Salvini, eccetera eccetera, torni a candidarsi oppure si dimetta, faccia il senatore e faccia attività politica. Quando tu sei Presidente della Repubblica te la puoi prendere in maniera indiretta senza nemmeno citarli. Può richiamare tutte le forze politiche, può richiamarle come spesso. È evidente che si riferisce. Ma non deve dire nulla contro nessun partito. Non deve dire nulla contro nessun partito. Il Presidente della Repubblica spesso che è il garante, può richiamare i partiti anche a rispetto del Napolitano. Sentiamo Napolitano. Il dato saliente resta quello del dilagare oramai di rappresentazioni distruttive del mondo della politica, ma così la critica della politica e dei partiti, preziosa e feconda, è degenerata in antipolitica, cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. Patologia eversiva, tant'è che Grillo pubblica una roba sul suo post dicendo sono un eversore. No, devo dire, su questo ha ragione Grillo, cioè senza dubbio. Non credo. Ma tutta la vita proprio, tutta la vita. Non credo proprio, ma guarda. Tutta la vita, ma tutta ma la vita. Ma non credo proprio, guarda. Allora, il nuovo commissario, che non è commissario Magrè, non è un commissario di polizia, il commissario ex partecipante alle correnti, tra l'altro, ex componente delle correnti del Partito Democratico a Roma, perché questo non bisogna mai dimenticarlo, il signor Orfini, che è anche presidente del partito, e che nel passato faceva parte anche lui delle correnti politiche a Roma, e adesso è il commissario del partito, e dice che Alemanno è indagato per il 416 bis, mentre il nostro usa la scorta, in realtà non la usa nemmeno perché l'ha rifiutata, Marino, cioè dice c'è una differenza tra Alemanno indagato per mafia e Marino che non è indagato per niente, anzi è protetto. È evidente, vabbè, sì, ma Alemanno non comanda più, diciamo, mentre Marino comanda comunque. Sentiamo Orfini. Altri ci aggrediscono, ci attaccano, se la prendono con noi. Io voglio dirgli che non si devono permettere, perché non si possono permettere di dare lezioni a noi, perché il loro sindaco è indagato per il 416 bis, associazione a delinquere di stampa mafiosa. Il nostro sindaco deve sentire il prefetto che gli chiede di andare in giro con la scorta, e allora tra questo c'è una sostanziale differenza e si vede chi è che ha favorito la nascita della criminalità in questa città e chi sta combattendo. Questa storia della scorta comunque mi fa impazzire, perché Marino l'ha rifiutata ancora, cioè ha detto di no alla scorta. secondo me è un bellissimo gesto da parte del sindaco. Ma che te pareva che non lo dicevi? Ma fino all'altro giorno dicevi che il sindaco deve prendersi la scorta comunque. Adesso no, per... ma l'altro giorno veramente me la sono sempre presa con Marino per la vicenda delle multe, se tu ricorderai, che secondo me... Comunque Marino dice detto, il prefetto non è mio... Questa cosa della scorta è bello perché invece lui ci ha messo la faccia, dice io non ho paura e continua a... Ma se uno, se il prefetto ti dice che devi prendere la scorta, perdonami, la scorta te la prendi. Ti prego, perdonami, ti prego. Ma te la prendi la scorta e basta, dai, su. Ti prego. Dimmi. Ti prego. Dimmi. No, c'è una differenza sostanziale tra il Salvini che lascia la scorta a casa e va al campo rom, perché il caso, no? Qualcuno già questo? Mi scrive. C'è una differenza sostanziale tra il Salvini che lascia la scorta a casa o non l'avvisa e va Marino, a Marino, prendi la scorta e non rompere le scatole, dai, su, non creare disagi alla polizia municipale, a quelli che ti devono seguire, disagio, eccetera. Prenditi la scorta con la macchina e basta. C'è un sindaco che forse si sente addirittura più sicuro a girare così tra la gente. Ma se il prefetto ti dice di prendere la scorta, metti nei guai e metti nei casini tutta l'organizzazione, prendi la scorta e basta, non puoi dire che il prefetto non è suo padre. Salvini lasciava la scorta. Ma non me ne frega niente di Salvini, sto parlando di Marino, è un'altra cosa, dai. Per andare a giocare in un campo rom. Ma non c'entra nulla, dai. Per andare a giocare in un campo rom. Il prefetto non è mio papà. Per andare a giocare, mi sembra di essere Brunetta in un campo rom. Appunto, finisci di fare Brunetta. Per andare a giocare in un campo rom. Va bene, invece Marino decide di rinunciare per Marino, immagine, per propaganda, non perché è convinto, per propaganda, Marino. No, quale propaganda? Sì. Senti Marino. Il prefetto non le ha detto di non andare più in giro in bici? Ho capito, non è il mio papà. Vabbè. Oh, a me diverte solo una cosa oggi, il fatto che stiamo perdendo veramente un grande cervello, Un grande cervello. Nella fuga, dici? Beh, sta per lasciare l'Italia, forse. La mitologica Efe Ball, prostituta, transessuale, a Milano sono pieni manifesti. Come sapete, e dove va? Già ospite della Zanzara in una trasmissione caldissima. Beh, minaccia di andare in Turchia. Dice: me ne vado in Turchia, basta, qui sono perseguitate, devo pagare 700.000 euro a fisco. Ma dobbiamo trattenerla, dici? Beh, mi sembra obbligatorio. Minaccia di andare in Turchia. Ho capito. Dice di aver cambiato residenza e di essere nulla tenente. Ti piace un mondo così? Ma mi piace moltissimo un mondo così. A me fa cagare un mondo così. Io perché dovrei pagare questa cosa? Perché sono una cretina, ho messo soldi. Ebbene, da 6-7 mesi ho cambiato la residenza, sono una nullatenente. I gioielli per ora ci sono, ma tra un po' anche quelli non ci saranno. I barchi? Nullatenente. Stupendo. Allora Parenzo, mi dicono che tu, tra l'altro, ha fatto benissimo il governo a precettare. Tu ti rendi conto che domani c'è lo sciopero generale, no? Casualmente il venerdì. Chissà perché il venerdì, no? Domani il venerdì. Si opera. C'è lo sciopero generale il venerdì. Il venerdì sciopero generale. Ma fai il cazzo che ti pare. Il venerdì sciopero generale. Tra l'altro l'unica rottura di coglioni per me è che vado in motorino e me ne frego totalmente è che il bar qua sotto, il bar del Sole 24 Ore, pure sciopera, incredibile. Bar sciopera. No, sciopera, c'è scritto sciopera, sto col cartello, domani il bar chiuso. Benissimo. Mi sono benissimo. Incazzato come una bestia, ma come scioperate? No, sai, la mensa non sciopera mentre il bar sciopera. Il bar sciopera. Benissimo. Il bar sciopera, il bar, amico mio. Il bar. E anche altri tecnici sciopereranno domani, vedrai. Su, ma dai. E giustamente il governo ha precettato i cosi, ha precettato i ferrovieri. Con la CGL incazzata, un gesto politico, ma è normale, l'Italia deve camminare, si deve muovere, i ferrovieri devono lavorare, amici miei, ferrovieri, piloti, steward, quello che è. Ma mi hanno detto che tu hai fatto un video sull'eutanasia insieme ad altri VIP presunti tali, no? A favore dell'eutanasia. Sentiamo un po' la voce di Parenzo che spunta tra altri, tra Veronesi, Selvaggia Lucarelli, altre persone. Parenzo. Onorevoli parlamentari, chi aiuta un malato terminale a morire rischia fino a 15 anni di galera. Ritengo un mio diritto inalienabile poter scegliere se, come e quando. Anch'io. Ma hai detto solo anch'io? No, c'è anche la parte in cui dico questo è il mio corpo, non sarà un bel corpo per qualcuno, ma è il mio, ho diritto di morire, se voglio. Mario Adinolfi. Ale, buonasera ragazzi. Buonasera. Come andiamo? Hai visto Parenzo che è spuntato in questo video? Con te, caro imam. Bellissimo, 70 volti di quelli famosi che fanno la sfilata sulle cose che non capiscono niente. Veronesi non capisce niente sull'eutanasia. Ma insomma, Veronesi veramente sembra un po' appannato, dico francamente. Insomma. Allora, io dico una cosa, io sono a favore dell'eutanasia, però... È come te sbagli. No, aspetta, sono a favore dell'eutanasia, poi bisogna vedere ovviamente le leggi, i dettagli e tutto quello che ti pare. Sono contro l'eutanasia dei bambini, per esempio in Belgio, quello che è. Però, attenzione, non firmo né faccio appelli. Io trovo gli appelli, per soprattutto dei VIP, eccetera, delle buffonate inaudite. Primo, perché di solito vengono strumentalizzati. Secondo, servono soprattutto, vengono strumentalizzati a destra e manca, ma soprattutto servono solamente, non parlo di te Parenzo, servono perché sei convinto ovviamente, ma servono solamente alle persone per farsi vedere. Cioè la maggior parte delle persone che fanno questi appelli non capisce assolutamente nulla, come dice Mario Adinolfi. La questione è molto semplice. Aspetta, io sono... non c'è nulla da capire. Aspetta, mi fai finire? Allora, no, perché poi c'è il califfo. Ma il califfo, non ti preoccupare, il califfo, adesso ci parliamo col califfo Adinolfi. Il califfo teocratico invitato. Però ti ripeto, non fidatevi di chi fa gli appelli, perché nella maggior parte dei casi non capiscono nulla, nella maggior parte dei casi, e soprattutto servono solamente alle stesse persone per farsi vedere, per mettere il faccino, per dire ecco ci sono anch'io, sono a favore dell'eutanasia che è una cosa bella, è una cosa giusta, perché tutti quanti abbiamo il diritto di decidere quando morire, che è giusto, perché io sono anche d'accordo, ma l'appello a queste persone serve solamente per la notorietà. Adinolfi. Ma no, no, non mi piace la battaglia alla moda intanto, no? Per cui adesso capisci che quella cosa non ti fa pagare nessun prezzo, anzi magari ti regala pure come sviluppo di notorietà gratis, e allora ti metti lì nel gruppetto, fai la tua bella figura e insomma, un tema come questo, ma lo puoi affrontare con i 3 secondi di Parenzo in cui dice anch'io, perché quello dice Parenzo. No, dice anche un'altra cosa, cioè, dice pure il corpo, vabbè. Ma che dici Parenzo, che tu che vuoi fare? Ora, quello che dice Fregnaccio, aspetta Mario, poi torno da te. Che non ho capito, Parenzo? Traffico, va, traffico, torniamo subito, vabbè, ma è una cosa incredibile, guarda, incredibile. Però vi devo confessare una cosa, le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Non ho capito Parenzo che cosa faresti col tuo corpo, tu mi spieghi? Io, se, come ho detto prima, se il califfo lo permette, che taglia anziché le teste i diritti, il califfo Adinolfi, io voglio morire. Non ho capito, scusa. Io voglio morire. Adinolfi vuole morire quando vuole, Parenzo. Ma lo senti che boiata? Allora, parte che parla come se fosse collegato da un'astronave, ma lasciamo perdere questa roba. Lui il califfo, sì, sì, parla in viva voce, però non si sente una mazza, si interrompe la linea. Vabbè, ma è la radio, come dire, alla carte, allora, come uno cazzo vuole. Allora, per dirla, prima cosa, le strade in diretta sono utilissime a chi lavora. Ma che utilissime, sono una boiata inaudita. Ma che te frega te? Utile, ascolto perché mi serve molto spesso. Ma quando mai? Ma quando mai? Le strade in diretta sono utilissime. Non sono utili per niente, sono una boiata. Sono una boiata che non serve a nulla, dai. Ai 70 dei video sull'eutanasia non servono, ma quelli normali che vanno in giro per lavoro sono molto utili. Vabbè, poi seconda cosa, la questione. Allora, c'è un'infermiera di Lugo di Romagna che ha ammazzato 96 persone. Ma che faceva i selfie con i... Vabbè, che c'entra questo con l'appello per l'eutanasia? Allora, voi volete dare una copertura legale a un'operazione che sopprime i malati gravi in ospedale? Questo è il meccanismo, eh. No, però scusami, Mario, che c'entra quella di Lugo di Romagna che ammazzava le persone con le siringhe, con quelli che vogliono l'eutanasia legale? Sono due cose diverse. Quella Veronesi ha detto con chiarezza che l'eutanasia in Italia viene già praticata. Come pensate che viene praticata l'eutanasia? Esattamente come il meccanismo dell'infermiera di Lugo di Romagna. Ma no, dai! L'infermiera di Lugo di Romagna l'avete beccata, e adesso sappiamo che si fa i selfie con il cadavere perché si vuole liberare il malato. Cioè tu stai dicendo che Veronesi vuole quella cosa lì? Io sto dicendo che in un sistema sanitario come quello italiano, se tu puoi dare al sistema la possibilità di scegliere tra sopprimere il malato grave con un'iniezione di cloruro di potassio che costa 13 euro o curarlo, perché curare un malato grave può costare centinaia di migliaia di euro, se tu dai al sistema la possibilità di scegliere tra queste due strade, il sistema si orienterà su quello che costa meno, cioè sulla soppressione invece che sulla cura. E questa cosa, se uno ci ragiona, non è una stupidaggine, su questo bisogna ragionare. Cioè tu dici che quelli se che hanno fatto questo appello sono degli assassini, in sostanza. Io dico, quelli che hanno fatto questo appello non capiscono di cosa stanno parlando prevalentemente. No, non hanno seguito, sei tu non hanno, che non mi dai la possibilità di decidere sul mio corpo. Dopodiché, perché... su questi su questi argomenti, poiché in Belgio, Olanda, Lussemburgo, la legge sull'eutanasia c'è, quel video parla di Svizzera, che è un'altra cosa. L'eutanasia legale. No, cioè non Belgio, fare il Olanda furbo. E Lussemburgo. In Belgio, Olanda e Lussemburgo sono stati ogni anno con curve esponenziali fino a 20.000 soggetti. Ora voglio dire, ma secondo voi ci sono 20.000 casi di soppressione per malattia grave? Beh sì, evidentemente ci sono un sacco di casi. Ma io vado oltre, se uno sta male e si vuole ammazzare, perché non si può ammazzare? Scusa, spiegami. Si può ammazzare, chi nega la possibilità di ammazzarsi? Chiunque si può ammazzare. Il tema è un altro, se l'eutanasia deve essere legale, cioè di Stato. Questo è il passaggio su cui non voglio, cioè io non posso assolutamente pensare che non abbiate riflettuto. Se l'eutanasia è di Stato, cioè in un nosocomio si decide se curare una persona o non curarla, facendo finta che la volontà l'abbia espressa il soggetto, ma se tu e hai se uno scrive esplicitamente legale, se uno scrive esplicitamente che in caso di situazione, se tu scrivi esplicitamente adesso che tu vuoi essere soppresso se starai male, lo scrivi con la coscienza che hai adesso. Tu devi pensare a quello che sei quando sei in un letto d'ospedale. Dunque, secondo te non deve essere consentito nulla da questo punto di vista, nulla. Secondo me quel tipo di norma espone la società italiana a una condizione infernale, data anche la condizione della sanità. E per cui questi qua veronesi in testa Italia, che sono? Ignoranti, vanno alla moda, non capiscono nulla, che vogliono? Una gran parte non capiscono di cosa stanno parlando, una parte sono irresponsabili, gli altri sono pericolosi. Per me veronesi è pericoloso da questo punto di vista. Tanto veronesi è anche quello che dice che l'unico amore vero è quello tra omosessuali. Vuole inoculare una cultura della morte che io assolutamente non voglio far passare. Oh, Parenzo Paladino della cultura della morte. Avete costretto. Io voglio morire. Cosa ha detto? Costretto. La cultura della morte è una follia. Non ha senso. Allora, chi non ragiona come... Fai parlare Parenzo un attimo, dai. Chi ragiona come Adinolfi ha costretto il povero Monicelli a uccidersi, a buttarsi da un ospedale, a buttarsi dal terrazzo di un ospedale perché voleva farla finita, anziché morire dignitosamente nel suo letto con l'eutanasia, con la dolce morte. Avete sulla coscienza il fatto che Monicelli si è... E io avrei fatto la stessa cosa di Monicelli, fossi stato nelle sue condizioni, mi sarei buttato. Come rispondi su Monicelli, Adinolfi? Come rispondi su Monicelli? Ma che non è vero, signori, ma se voi pensate con il cavallo di Troia di un caso singolo, fate passare una norma che può riguardare decine di migliaia di situazioni in cui il sistema sanitario nazionale... Tu dici Monicelli alla fine ha fatto una scelta, la scelta che voleva fare. È una scelta individuale, ovviamente. Non puoi pensare che quella scelta individuale debba giustificare una norma nazionale erga omnes. Esponi il sistema sanitario nazionale a un rischio colossale. Colossale, chiedetelo agli anziani che ci vanno in ospedale. Quante volte hanno paura di essere soppressi? Quante volte hanno paura? Avete mai assistito un malato grave in ospedale? È terrorizzato all'idea che l'infermiere non li sopporti più. È ma terrorizzato, figuriamoci se c'è una copertura legale. Ma dove vivo? Vivo nella vita reale. Ma dove vivi? Quella, nella vita dove c'è il traffico, capito? Nella vita dove si cammina davvero, nella vita dove le cose succedono davvero. Senti, non nella vita raccontata. Non nella vita raccontata, capito? Non nel mondo di Platinet. Non nel mondo di Platinet, nel mondo vero. Ah, Platinet è uno dei non truccato, insomma, capisci? Tra l'altro Veronesi, Mario, è uno di quelli che ha detto che l'amore vero è quello tra omosessuali, che Dio non esiste. Insomma, ma io sugli omosessuali, l'amore tra gli omosessuali non mi interessa, il problema sono le norme. No, ma ho capito, passando ad un altro argomento. Io non voglio il matrimonio gay e non voglio la legge. No, ma è vero che l'amore più sincero, è vero che l'amore più sincero è quello tra omosessuali, come dice Veronesi? Ma io penso che l'amore molto sincero lo faccio con mia moglie, non riesco a capire perché sia molto vero quello omosessuale. Che non, e che ne so, l'ha detto Veronesi, che ne so. Ma mica il Papa, insomma. Il Papa, anche quello che dice il Papa si può contestare. Papa comunque un sacco di cose intelligenti. Guarda, comunque ha detto anche che Dio non esiste, che Dio, aspetta un attimo, ha detto anche che Dio non esiste perché i bambini muoiono di cancro, lo stesso Veronesi, Il cancro mostra solo che Veronesi non è Dio, è questa la questione, capisci? Che Veronesi non è Dio e nessuno di noi può sostituirsi. Questa è una cosa. Cioè, secondo te Veronesi è un uomo pericoloso? È un uomo pericoloso. Io penso che quello che sta portando avanti in questa ultima fase della sua vita siano teorie pericolose, molto pericolose. Mi dispiace perché poi è un pifferaio che funziona, come vedi, tu mi citi Veronesi e poi devi beccare Luca Barbarossa e Neri Marco Re che ti fanno gli ideologi dell'eutanasia. Pure Parenzo, cioè, pure Parenzo. Lo penso, lo fa per moda, lo sappiamo, non ci crede, insomma, cioè non è una cosa vera. Lo fai per moda, perché sa che sono battaglie che non portano prezzo. Assolutamente per moda, tutt'altro. Considero quello il mio testamento biologico e qualora mi dovesse capitare vorrei che fosse uno dei miei migliori amici a staccare la spina in omaggio al mio diritto a morire. E a farti il siringone, io non te lo farò il siringone, te lo dico subito. Un attimo solo. Secondo. Aspetta, secondo un corno che c'è la pubblicità. A voi piace un mondo non ci sono. A noi, a me, non lo so che mondo mi piace, io non voglio essere ammazzato, però quello sicuro. Lo faccio da parezzo. Amici miei, siamo al top, eh? Questa è una fava, te, tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia di quelle zanzare morte. Ma questo è Ceccherini, no? Il signor Ceccherini, tra l'altro, pare che abbia incontrato Carminati in un'intercettazione. Ma cosa c'entrano i due? Che ci azzecca? Ma risulta che di fronte a un bar di Roma i due si incontrano, parlottano insieme. Massimo Ceccherini, c'è cioè l'attore Massimo Ceccherini e Massimo Carminati, ti giuro, e Carminati si incontrano. Beh, sarebbe curioso chiedere a Ceccherini, scusa, perché ti incontri e parli con Massimo Carminati? A me che Carminati è uno che conosce tutti alla fine, di Riffo o di Raffa conosce tutti. Allora, vi ho già detto che stiamo per perdere Feball, eh? La quale è scatenata e dice che in Svizzera le banche ti trattano benissimo. Beh, certo, gli porti i soldi in contanti, cash. Lì, quando vai con soldi in banca, ti mettono il tappeto rosso. Dicono: ah, benvenuta signorina Efe, come possiamo essere utile? Come dimagrita, come bella. Insomma, quando vai in una banca con soldi ti trattano come fossi una principessa, un sceicco. Quando vai in banca qua ti dicono, nascondi. Bisogna essere invisibile. Oddio, dici: oh, mamma mia, ho un orologio, soltanto un grammo di oro dovrei nascondere. Allora, fra pochissimo un altro estratto del disco di Antonio Razzi, con chi vuole andare a Sanremo, presentato in esclusiva qui alla Zanzara qualche giorno fa, caro Parenzo. Beh, è scoppiato il finimondo su questa cosa qui, eh? Razzi a Sanremo. È la nostra prossima battaglia. Carlo Conti, rispondi. Vogliamo Razzi a Sanremo? Perché no? Può essere anche buono per gli ascolti, eh? Beh, quello è un po'. Sì, quello è il posto adatto per lui. Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Questo mai. Fra poco manderemo in onda un altro pezzo di questa canzone. Pensi, fammi cantare. Meglio Razzi a Sanremo che non al Senato. Insomma, meglio Razzi al Senato che piano al Senato, quello sicuro. No, io dico assolutamente. Io dico meglio Razzi a Sanremo, dove almeno fa servizio gli ascolti della Rai e quindi fa servizio pubblico. Ecco, sì, questo mi convince molto, effettivamente. Meno sta al Senato, già che ce lo abbiamo e lo abbiamo pagato, è lì. E meglio che stia a Sanremo a fare altre cose. Sì, ma perché non glielo dici in faccia quando vai a fare i servizi con lui? Dico, mi è venuto in mente adesso, ma voglio dire, glielo posso, chiamiamolo e glielo dico tranquillamente. Antonio da Vicenza, Antonio, dimmi, dai. Buonasera, io vi ascolto tutte le mattine in podcast perché la sera non posso ascoltarvi. Sì. E volevo farvi una richiesta, se possibile, anche se adesso mi ammazzerete un po', se ogni tanto potete gridare: dai Antonio, vai, che così con tutta sta politica mi va giù il fisico, proprio non riesco a correre veloce. Invece quando ascolto la Nappi o addirittura la Carmen di Pietro, che mi sono divertito da morire a sentirla, che ha bisogno di 5.000 euro al mese, mi carica e riesco ad andare più veloce. riuscite a fare sto piacere. Allora, Antonio, però abbi pazienza, io sono, come dire, ti sono devoto da qualche da un certo punto di vista, però tu mi chiedi una cosa incredibile, cioè tu mi chiedi praticamente di invitare sempre o la Nappi o la Di Pietro o personaggi simili, perché grazie alla Nappi, alla Di Pietro, questo è un grande referendum su quello che vogliono gli ascoltatori della Zanzara. Per esempio, abbiamo capito ieri, caro Parenzo, che gli ascoltatori della Zanzara vogliono in realtà un filo diretto con la Nappi, e noi lo organizzeremo al più presto. Adesso Valentina Nappi si trova in Sudafrica, l'ho scritto, eccetera, per le vacanze di Natale o per girare qualche scena, qualche film, non lo so, sai, là in Sudafrica. Beh, no, per girare quei film c'è da fare con i Black, con i Black c'è da fare in Sudafrica, a parte che li trovi anche in Italia volendo, ma comunque è in Sudafrica per affari suoi, tornerà dopo le vacanze di Natale, e beh, ho già detto che organizzeremo un grandissimo filo diretto su sesso, attualità, politica, botta e risposta con gli ascoltatori, botta e risposta, non cercate di non capire. No, no Antonio, no, che dici? No, no, equivocato su questo. Io vi ascolterò subito, così mi metterò subito in pista quella mattina che farete questa trasmissione, mi farò un bel 30 km, almeno riuscirò a portare avanti la mia preparazione per la maratona. L'importante è che se non c'è la Nappi o non c'è la Carmen Di Pietro o non c'è la... Questa Carmen Di Pietro, si è fissato con sta Carmen Di Pietro, eh? Ma perché 5.000 euro, cioè 5.000 euro prende questa, ragazzi? Vabbè, ma questa è la pensione che aveva il marito, paternostro, quello... e che adesso lei si vuole tenere, anche se dice io se mi sposo lo perdo questa cosa, aiutatemi a mantenere la pensione. Aiutiamola a guadagnare 5.000 euro, cioè se io le aiuto a portarglieli via, a taglierli, scherziamo? Va bene, grazie Antonio da Rieti. Salve, salve. Dimmi. Sono un infermiere, volevo intervenire per quel Adinolfi che stava prima dicendo. Bravo. Che noi infermieri non bramiamo altro che uccidere miliardi di vecchietti appena arrivano. Io non so, molti mi hanno segnalato questa cosa che ha detto Adinolfi, adesso tagliamo il pezzo di Adinolfi. Cioè Adinolfi avrebbe detto, in quel momento ero distratto perché Parenzo mi ha fatto perdere la concentrazione. No, eri distratto. No, ero distratto perché stavo pensando ai tuoi colleghi. Ai tuoi collegamenti, no. Scusami, Antonio, avrebbe detto che gli infermieri vogliono in realtà ammazzare per liberarsi dei pazienti. Che entrano nelle case di riposo, negli ospedali, sono terrorizzati da noi infermieri che vogliamo ammazzare tutti i vecchietti. Beh, gli vorrei dire che primo, uno si fa infermiere per aiutare gli altri. Secondo, vabbè, adesso però non facciamo la difesa dell'infermiere che interviene a favore della categoria. È l'opinione di Adinolfi, non è che sia, cioè, non è il ministro della salute. Decisamente no, per fortuna direi. Però vorrei dire un'altra cosa, che per tutti quelli che dicono che l'eutanasia di qua, l'eutanasia di là, cioè la morte è una cosa personale. Io non dico che dobbiamo... Vabbè, maestro, non apriamo qui il dibattito sull'eutanasia. Tu sei rimasto, ti sei offeso per il fatto che Adinolfi ha sostenuto, adesso vediamo se esattamente quello che ha detto, che in realtà gli infermieri, insieme a tutto il sistema, i medici, hanno più convenienza a far fuori le persone, a liberarsi dei pazienti, piuttosto che ad assisterli. È così? Decisamente sì. Va bene, ciao. Andrea Piacenza. Buonasera a tutti. Vai. Ciao, dimmi. Dunque, per quello che riguarda quello che ha detto il signor Napolitano, sì. Dunque, è una cosa che ha lasciato un po' di stucco parecchie persone, immagino. Ma a parte questo, è veramente una butade. Cioè, con tutto quello che è successo a Roma, lui con cosa se ne esce? Con l'antipolitica. L'antipolitica è una cosa, dice che è una cosa... Vabbè, è una fissazione però di Napolitano da tanto tempo, non è la prima volta. Sì, che è una fissazione, però con quello che è successo a Roma, con tutto quello che sta succedendo con arresti, indagati, l'ex sindaco, il sindaco, tutto quello che è successo, non ti puoi permettere di dire certe cose, non puoi neanche nemmeno pensarlo, perché tu pensa solo a quelli arrestati che stanno in carcere e a quelli indagati che hanno sentito il monito di Napolitano. Tu pensa a questa cosa, dicono, cazzo, abbiamo il presidente della nostra parte. Ma no, ma non è così, dai, non puoi dire che è dalla parte dei corrotti, dai, su, cioè non è così. A me sembra una cosa così. Ma no, ha detto. Ma si fa a dire una boiata? Ha fatto la solita requisitoria di Napolitano, un po' stantia sull'antipolitica, sono degli eversori quelli che attaccano tutta la politica, tutte queste robe qui. Perché dopo che c'è. Ma scusa, perché questa. Sono queste. Sono le cose di un vecchio signore, sono le fissazioni di un vecchio signore, dai, su. No, ma quale fissazione? fissazione. Le fissazioni di un vecchio signore contro i partiti che prendono consensi. Ma quale fissazione di un vecchio signore? Ma perché? Non ho capito. Di Napolitano, perché? Qual è il problema? Perché non si può dire. Signore, ma ti pare un modo di dire? Ma perché non è poi che alla zanzara che uno che deve fare? Deve usare il presidente della Repubblica? Oddio, bisogna trattarlo bene. Allora. Come forse le fissazioni di un vecchio signore contro i partiti sono le fissazioni di un vecchio signore contro i partiti che. Sono le parole del capo dello Stato che giustamente. Siccome crede che l'antipolitica sia un male, cosa vera, perché l'antipolitica ha portato ad esempio all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, e a questi disastri che ci sono questa. E tu sei complice di questa merda, perché tu sei, cioè, tu sei a favore del finanziamento pubblico dei partiti. Cioè tu pensi che guarda che rubavano lo stesso anche col finanziamento, prendi quello che io dicevo 2 anni fa. No, ma guarda che ma forse non hai capito ancora. Forse non hai capito che non è che col finanziamento pubblico dei partiti si rubava lo stesso, forse anche di più, perché non basta mai. Perché non basta mai, non basta mai. Si rubava e si pagava e comunque. Vabbè, fammi sentire Andrea. Ma quale finanziamento pubblico, meno male, anzi pare che dalle dichiarazioni dei redditi dall'uno per mille, quella roba lì, verso i partiti siano andati delle briciole. Meno male, la gente ai partiti non dà un euro. Rimarrà soltanto la gente ai partiti. È molto strano che non prendano soldi dalle persone. La gente ai partiti non dà un euro. Andrea, lei darebbe un soldo a un partito, un euro a un partito? Io sì. Ma tu dalli con la tua dichiarazione di reddito. Tu li daresti, Andrea? Assolutamente, in un modo equilibrato. Li daresti nella dichiarazione dei redditi? Faresti un versamento ai partiti, a un tuo partito? No, nella dichiarazione dei redditi no, anche perché so che il finanziamento partiti non è stato abolito. Vabbè, sì, gradualmente sarà abolito. Fermi tutti. No, non siete seri per niente. Non ce la faccio più, non vi supporto, è un programma brutto, è brutto. Ceccherini, ci spieghi perché ti sei fermato davanti a un bar a Vigna Stelluti a Roma a parlare con Massimo Carminati? È incredibile questo incontro, un paio di minuti, 2-3 minuti, non c'è nessun nastro. Però vorremmo sapere cosa si sono detti, si conoscono, non si conoscono. Un attore, Massimo Ceccherini con Massimo Carminati. La Melandri si lamenta per essere finita nel tritacarne. Certo, quando finivano gli altri nel tritacarne era tutto un godere, no? Era tutto un era tutto. Quando gli altri finivano nel tritacarne si stava zitti, si godeva dei disastri politici altrui. Adesso il suo commercialista pare essere uno dei che appartiene appunto alla cupola, no? Ed è quello che ha fondato, ha creato questa fondazione umanitaria della Melandri. Per carità, sicuramente non c'entra nulla, però è indignata. Ma amica mia, ma avete goduto una vita sulle intercettazioni telefoniche degli altri e sugli schizzi di fango e di merda che arrivavano su quelli della destra? Adesso vi lamentate, dai, su. Eccola, non è ancora la versione definitiva, però ci siamo quasi. Con questa canzone, la sentirete tra pochissimo, restate qui incollati, con questa canzone dove c'è lui, Antonio Razzi, con le sue parole, col suo cuore, proverà ad andare a Sanremo, non nel concorso, ovviamente non potrebbe andare perché la canzone deve essere inedita, ma cercherà di essere ospitato senza cachet. Senza rimborsi, senza nulla, senza un euro. Quello che io faccio non ho mai pentito. Sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Poi Crozza mi ha imitato e ora sono anche famoso. Caro amico, te lo dico da amico, e fatti i cazzi tuoi. Fammi cantare, tira campa e fammi sognare. Rimborso spese per arrivare alla fine del mese. Fammi cantare, tira gamba. Allora, è un genio, di la verità, Parezzo, di la verità, no, è un genio assoluto. Come? Ma, non te se sente, parla! È un genio assoluto, peccato che faccia politica. Io mi chiedo e mi diverte perché lo invitiamo nelle trasmissioni, fa ascolto, funziona. Ma è un genio, dai, è un genio. L'unico piccolo problema è mi chiedo se negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma manco in Germania o in Francia, se esiste un personaggio di questo tipo. Allora, fenomeni da baraccone, dici tu, da baraccone. Greco più autentico. Ma che differenza c'è, dico io, tra la canzone composta tra una canzone composta da Antonio Razzi, che fra poco risento e che mi metterò come suoneria del telefono per il prossimo mese almeno, e la nuova rivista dove il figlio fa il direttore, peraltro, di Renzo Piano? Cioè, tu spiegami, per parlare di senatori, che differenza c'è? Ma non c'è nessuna differenza. Ognuno, no, ma lui fa il direttore della rivista del padre. Per carità, vorrei capire se in questa rivista, se la rivista se la paga lui. Ma scusa. Sì, bisogna vedere con quali soldi la paga, ovviamente. Se la paga con i soldi dello stipendio da senatore, la nuova rivista, e ha messo il figlio come direttore, che tra l'altro lo conosco benissimo, Carlo Piano. Spero di no per lui e spero di no per il padre. Spero che siano soldi solo suoi, che non sia, come dire, la parte di stipendio che lui. No, che lui impiega. Vorrei semplicemente sapere questo. Comunque, potrà fare quello che gli pare con i soldi suoi, però. Con i soldi suoi, però, ma non con i soldi pubblici. Come fai a dimostrare che i soldi che prende da senatore, quello guadagna con lo studio di architettura? Sì, bisogna vedere, magari ci sono dei finanziamenti diretti che arrivano direttamente dallo stipendio di senatore a questa rivista qui. Ma si può fare le pulci su tutto? Cioè, bisogna fare le pulci su tutto. Bisogna fare le pulci su tutto. Su cose che abbiano una coerenza. No, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Il punto fondamentale è questa meravigliosa canzone. Il punto è che bisogna usare ormai Razzi, visto che è pagato. Io questo dico ormai, sono arrivato a questa cosa. Come servizio pubblico. Esattamente, esattamente. Cioè, fatemi risentire questa canzone, vi prego. Non come legislatore. No, ma l'ho capito. Evidente. Ma tanto che vuoi che legiferi. Quello che io faccio non ho mai pentito. Non ho mai pentito. Sono stato eletto senatore. Eh sì. Anche perché di fame si muore. Ma questo però non va bene, eh. Poi Crozza mi ha imitato. E ora sono anche famoso. Eh sì. Caro amico, te lo dico da amico. Questa è bella, eh. E fatti i cazzi tuoi. Fame, cantiamo tutti insieme. Secondo me c'è un problema di rime. Tira campa. Mi sognare. Chiedo solo il rimborso spese per arrivare alla fine del mese. E Parenzo invece vuole il finanziamento pubblico dei partiti, ecco, nonostante tutto quello che è successo, i soldi che si sono mangiati proprio a piene mani, vuole che gliene diamo ancora di più per mangiare, per ingrassare ancora di più. Proprio per quello che è successo. Cosa pazzesca, guarda. Fammi sentire Giovanni da Cagliari, è pazzesco. Proprio bisogna affamare la bestia, affamare la bestia, lo Stato, i partiti. Se uno vuole i soldi da me per fare attività politica. Pronto? Cruciani, mi dai 100? Voglio fare questo, questo e quest'altro. Mi dai 100 euro? No, dipende. Se uno viene da me e mi dice io voglio fare questo, questo e quest'altro, io potrei anche dargli 100 euro. Se uno viene da me e gli dice, guarda, e mi dice io voglio legalizzare la prostituzione, eccetera, eccetera, legalizzare la marijuana, legalizzare la droga, mi dai 100 euro per questa battaglia? Ecco 100 euro. Questi sono i radicali. No, ma mi vuoi? Sì, i radicali, poi lasciamo perdere. Giovanni Cagliari, le cose che hai detto. Cruciani, Giovanni Cagliari, piacere sentirvi. Dimmi, ti piace la canzone di Razzi? No, mi fa schifo, ma ti penso fa cagare. A quel punto, esatto. Immagino anche a voi. Ma no, a me devo dire la verità. Sì, ovviamente è la canzone di Razzi, ragazzi. Non è che sia certo. Nuovo disco di Manson, di Springsteen, volevo dire. Cioè, adesso non so perché ho in testa Manson, è un'altra cosa. Di Springsteen, volevo dire. Vai. Beh, io sono un medico, ho sentito l'intervento dell'onorevole Adinolfi, io trovo... Non c'è nessun onorevole, era onorevole, comunque sì. Ah, era, bene, meglio. Trovo la cosa assolutamente inaccettabile. Lui assimila quello che è stato un omicidio, una serie di omicidi, una serial killer, con l'eutanasia, comunque con la pratica medica, che eventualmente è mossa laddove si verifichi tutto da dimostrare esclusivamente da pietà, insomma, diciamo così. Sì. Tra l'altro si dice che, non so, che parente... Aspettate, ringraziamo innanzitutto Paola Palma che mi ha mandato questa canzone meravigliosa, che è l'autrice, è quella che ha praticamente trascinato Razzi a cantare e che ha aggiustato anche alcune cose della canzone di Razzi. Vabbè, stiamo parlando di eutanasia, però Giovanni, non ci fare cadere i coglioni, perché sennò qual è il punto? Ma veramente, siete voi che me li fate cadere. Cioè, ma con che cosa? Ma che intervento è? Ma come si fa a dire Parenzo non può esprimere la propria opinione perché non è un addetto ai lavori. Adinolfi l'ha detto. Ha detto che persone che non sono addentro al problema non si devono esprimere. No, ha detto che... Lui è un giocatore di poker. Lui che cazzo è? Un giornalista? Che cos'è? Un ex deputato? E lui si può esprimere sul problema. E lui può sindacare. E lui dice anche che non si deve generalizzare da casi singoli quando... Ma glielo vuoi dire in faccia? Ma sì, ma passamelo. Ma sì, ma perché no? Però diglielo in faccia. Come cazzo fai a esprimerti in questo modo? Perché hai detto che gli infermieri sono come quelli che vogliono l'eutanasia? L'infermiera è quella di... Perché dici che non... Tu sei solo un giocatore di poker? Diglielo in faccia. Ma sì. Aspetta, adesso te lo passo. Sentiamo. Avanti. Aspetta. Adesso arriva, aspetta. Vai. Adesso arriva. Allora poi che cos'è che ti ha scocciato di questa roba? Dimmi. Ma lo diciamo direttamente quando c'è Adinolfi, se vuoi. No, ma dimmi, continua intanto. Dammi il tempo di chiamarla, amico mio, dai, forza. Aspetta. Beh, arriva, aspetta. Nessuno può essere... Aspetta, diglielo in faccia. E deciditi, insomma. Deciditi, un cazzo, aspetta, ci sono i tempi della radio, amico mio. Che fai? Eccoci, ricominciamo. No, aspetta, c'è uno che ti vuole dire una cosa, Mario, aspetta. Giovanni da Gaglia. No, dai, aspetta, questo t'ha massacrato, aspetta. Dai Giovanni, vai, coraggio. Adinolfi, le sue posizioni sono assolutamente inaccettabili. Come può dire che nessuno può esprimere la sua opinione perché non si tratta di addetti ai lavori, fra cui Parenzo? Chi può esprimere la sua opinione? Lei? In che veste? Che cos'è lei? Perché può esprimerla? Come giocatore di poker? O come deputato? Mi dica come? Come? Io non glielo voglio dare del tu. Allora? Adinolfi, può dire la sua opinione. Ognuno ha la sua opinione. Mario, ognuno ci sei... può dire la sua opinione tranne Parenzo, perché è un buffone, è un buffone Parenzo. Anche Parenzo può esprimere la sua opinione. No, Mario, lui l'ascoltatore può generalizzare da un caso singolo quando dice che qualcuno si è suicidato per persone come lei, e lei invece non dovrebbe generalizzare, non so, quando parla di una serial killer, che avrebbe ucciso delle persone con cloro di potassio. Ma non ti agitare, guarda, stai tranquillo, elabora un pensiero un pochino più articolato, poi richiami, perché così ti vedo un po' agitato. No, Giovanni... Però queste sono tutte le sue argomentazioni, Adinolfi. Ma no, ma dici cose a casa. Ma sì, Adinolfi, hanno capito tutti, tranne lei, forse. Sei uno dei soliti psicopatici che chiama, perché... Sono uno dei psicopatici. Adinolfi, lei è un ipocrita. Lo sfogatoio è interessato. Lei è buono soltanto a discutere delle libertà altrui. Lei è buono soltanto ad insultare gli omosessuali. Non vi accavallate. Giovanni, devi stare zitto. Giovanni, stai zitto un attimo. Ma siamo pazzi. Ma tu puoi dire a me che io insulto gli omosessuali? Prima ascolti quello che dico, poi mi citi un insulto fatto da me agli omosessuali, dopodiché parli, perché se parli a casaccio io non ti faccio parlare, questa è la cosa, capito? Tu parli a casaccio, io non ti faccio parlare, o dici le cose circostanziate, dici quello che ho detto, o altrimenti... Su questa ha ragione Giovanni, su questa ha ragione, però Giovanni ha detto una cosa... Detto a signorini? No. Ma che c'entra? Non ha insultato nessuno, è una dialettica del cazzo. Vabbè, lo vedi che stai insultando te, stai calmo. Allora, però fermi tutti. Allora, scusa, una sola cosa, poi vi lascio. Allora, Giovanni ha detto una cosa all'inizio, Mario. Sì. Ha detto che tu non puoi sostenere che quelli che fanno questo appello a favore dell'eutanasia sono ignoranti, che non sanno di cosa si sta parlando. E io ho detto che fare quel video, e lui ti ha detto anche tu sei un giocatore di poker, ha detto. Ma c'è, io sono un giocatore, ma che cavolo di accusa? No, sto dicendo, ma che io poi ti dico anche cose peggiori che giocatore di poker che sono, che ma sei? Non è quello il problema. Che sei? Ma scusa, per carità, sono un ciccione, come dicono, sono uno che gira l'Italia come un camionista, insomma, ne ho tante di cose. Il traffico mi è utile, pensa te. Ma perché hai dato il tuo telefono? Perché hai dato il tuo telefono l'altra volta? perché mi interessava ascoltare il parere della gente. E sai la cosa, Giuseppe? Io sono incredulo, ma io non ho ricevuto una telefonata vera di, diciamo, insulto becero. Mi hanno criticato, mi hanno telefonato, tantissimi hanno fatto congratulazioni. Io volevo capire qual era il sentimento vero delle persone che su questi temi giustamente si accalorano e vogliono magari farmi sapere la loro opinione. Io non ho trovato mai Giovanni. Vabbè, Giovanni chiama le segreterie telefoniche. No, io ho altro da fare che parlare con te. Io ho altro da fare. Ecco. Però allora, pure tu all'inizio gli hai detto che è uno psicopatico, hai esagerato pure tu. Certo, ma come uno psicopatico? Dai. No, questa la voglio sottolineare. Secondo te questa telefonata di Giovanni alla trasmissione che cos'è? È un tentativo di farsi notare, di farsi... Ma no, ma non è vero. Ma non mi chiama, ma figura di teme il confronto, perché sa che deve inventarsi cose per parlare. Lo teme, perché deve dire, ecco, tu insulti gli omosessuali, cosa che io non ho mai detto. È vero, Giovanni, questa cosa qua, capito? È vera. Se tu devi citare un episodio in cui insulta gli omosessuali, però. Mi devi dire, hai insultato, perché capito? Cosa? Dimmi, qual è l'episodio? Dare il frocetto anche a una singola persona. Sulla dialettica politica, però gli hai dato il progetto? No, gli hai dato il progetto. Ma dov'è l'insulto? Era una cosa, è un vezzeggio. Dov'è l'insulto? Ma dov'è? Ma non si è arrabbiato, Signorini? Non si arrabbiare tu, guarda, figurati. Vabbè. Signorini non si è arrabbiato. Quindi, non è il punto, Signorini. Il punto è che è un termine offensivo. Vabbè, tu mi fai la lezione sui termini quando hai imparato a pensare. Dopodiché fai la lezione sui termini. Ok, Giovanni, ciao. È un buffone, è un buffone. Vabbè, adesso dai, su. Che battaglia! Ma la volete di nuovo la canzone di Razzi o no? Parenzo, lo vuoi sentire? No, quella di Razzi, per carità. Giuseppe da Palermo, fammi sentire Giuseppe da Palermo allora. Pronto? Vai, dimmi. Pronto? Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Io sì. Ciao, volevo intervenire anche in questo per questo tema dell'eutanasia e sì. Poi una parola rapidissima sul presidente, sui commenti che sono stati detti al presidente della Repubblica. Ma in merito all'eutanasia, io sono un medico. Credo di conoscere un po' la sofferenza. Ora, quando parliamo di eutanasia, quelli che si dicono spada tratta, contrarissimi, perché che cosa difendono? Gli interessi di chi difendono? Della loro etica, del dito medio? Perché sicuramente non difendono la sofferenza del paziente, non vanno incontro al paziente, non fanno nulla, sono quelli che tengono le mani a un paziente che soffre senza poter fare nulla e senza il paziente non riesce neanche a morire, in preda ad atroci sofferenze. Loro gli tengono la mano, ma per aiutare che cosa? Per rappresentare che cosa? La loro etica? La loro coscienza? Dunque non è... Che bisogna fare? Una legge sull'eutanasia? Si deve fare una legge e non si sta dicendo ti puoi ammazzare chiunque vuoi per strada, basta che sia... No, lui dice che la conclusione di questa vicenda è già segnata, dice Adinolfi, cioè chi è a favore di questa roba alla fine finisce che si ammazzano tutti perché bisogna fare pulizia negli ospedali. Non si può concepire, Cruciani, non si può concepire una legge perché ci può essere qualcuno... Ma io sinceramente, guarda Giuseppe, io se soffrissi come un cane, se la situazione è praticamente compromessa, certamente vorrei che qualcuno mi facesse... Non c'è dubbio. Dopodiché in altri paesi si è arrivati anche al fatto che se uno vuole, sta soffrendo, cioè se uno vuole va là e si fa ammazzare. Questo, vogliamo questo? Io sono anche d'accordo, per carità. Cruciani, quando sei nelle condizioni di non poterti muovere dal letto, ma quale aereo prendi per andarti a fare l'eutanasia? Ma dove vai? Che non ti puoi muovere. I tuoi familiari ti possono portare, costa un sacco di soldi. Possono portare, se non c'hanno i soldi per portarti neanche alla stazione, come fanno? Questo è il discorso. Razzi, fatemi sentire Razzi. Dopo un po' quando parlo di eutanasia, ho bisogno di parlare di vita, ho bisogno di cose vive, non voglio parlare di morti, di morte, non voglio parlare di morte. Faccio, non ho mai pentito, sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Beh, questo non è bello, però. Ma è terribile. E ora sono anche famoso, caro amico, te lo dico da amico. E fatti i cazzi tuoi. Questo è buono, questo passaggio. Tutti insieme, Parenzo, anche tu. Tira a gamba, ma è incredibile. E fammi sognare. Sanremo, Sanremo, Sanremo, Sanremo. Vabbè, andiamo. Dove andiamo? Marco, Udine. Dai. No, il peso della corazzata Potemkin, una cagata pazzesca. È una cagata, ragazzi, ma adesso voglio dire, non mi fate dire le cose, è chiaro che è quello che è. Ma dopodiché Razzi, oh, non è che deve fare Springsteen, cioè Razzi. E sì, noi. Sì, dice meno puttanate del nostro presidente della Repubblica. Ah, sulla storia dell'antipolitica, dici tu. Sì, poi storia dell'antipolitica, ma a me mi ha fatto due palle così, cioè basta con questi pipponi sull'antipolitica, lo sappiamo, sì, ci sono quelli che sparano a zero contro tutto e tutti, non c'è bisogno che ogni volta il Presidente della Repubblica ce lo ricordi. E poi dopo cosa c'è? E dopo questo... Oh, mamma mia, perché non diventi il corazziere del partito direttamente? Perché non ti iscrivi direttamente al Partito Democratico e diventi il capo ufficio stampa? Non lo insulti addirittura? Ma no, ma perché non sto insultando nessuno? Sto dicendo che ha sbagliato a fare questa uscita, non insulto nessuno. Ma non l'ho detto. Ho detto prima una cosa. Ho detto sono i pensieri di un vecchio signore. Ma qual è il problema? Non ho capito. I pensieri di una persona che è il capo dello Stato, giovane, vecchio che sia, e che pensa che in questo paese c'è un problema rispetto all'antipolitica. Ma quale problema? Che è un problema grosso come la casa. Bisogna ringraziare che non ci sia gente che spara per strada, che con la campagna che c'è contro la politica, bisogna solo ringraziare che fino ad oggi non ci sono persone matte che pigliano una pistola e si mettono a sparare. Qualcuno l'ha fatto qualche tempo fa, peraltro, davanti alla Camera. Qualche pazzo lo ha fatto. È arrivato il pompiere. Dove andiamo? Marco, Udine, è arrivato il pompiere. Ma perché non diciamo che sì, non è che possiamo andare avanti sperando che nessuno spari, perché se continua così qualcuno sparerà veramente. No, quello no, quello mai. No, non deve succedere, ma se continuano così. No, io l'ho chiamato ieri, mi avete richiamato, però ieri nella castrazione chimica eccetera. Io vorrei capire perché c'è un tabù in Italia sulla pena di morte, che io adesso attraverso la strada, perché è stata eliminata praticamente in tutto il paese, sì, ma allora vogliamo, l'unico, non è una questione di vendetta, di etica o di, vogliamo, c'è un unico modo per cui siamo sicuri che un pedofilo non uscirà di prigione e stuprerà di nuovo una bambina, così, con una pallottola. Questo è l'unico modo. Non ho capito, spiegami, qual è l'unico modo? Una pallottola, bella pallottola, pena di morte, eccetera. Problema. Ma per chi? Per chi stupra? Per chi? Perché poi là bisogna decidere per chi. Sì, sì, beh, probabilmente per crimini odiosi come questi, poi dopo... però io non ho capito, se facciamo un referendum sulla pena di morte, secondo me fa finire come referendum sul divorzio. Tutti contrari al divorzio, però poi nel segreto delle urne viene fuori una bella maggioranza e si fa il divorzio. Perché sì, non ho capito, c'è questo tabù sulla morte. Ma c'è il tabù sulla pena di morte. C'è il tabù sulla pena di morte perché diciamo viene superata in tutto il mondo, a parte alcuni stati. Stati Uniti. Parenzo ha citato gli Stati Uniti come paragone, come esempio, e pare che lì non è. Sono pochissimi gli stati che ormai hanno la pena, per fortuna. Non possiamo dare, si parla sempre del carnefice, mai della vita. Vabbè, ma tu per chi la metteresti la pena di morte, Marco? Spiegami. Pedofili, stupri, omicidi, intanto. No, omicidi che sia. Chi ammazza, per esempio Buzzi ha ammazzato uno con 34 coltellate, per te andava preso e ammazzato? Allora adesso, al di là della cosa, di sicuro non avevamo la mafia capitolina. Quella magari la faceva qualcun altro, non è che magari la faceva, non è un motivo. No, guarda, sulla pena di morte non mi convincerai mai. Io magari sono molto duro su altre cose, ma sulla pena di morte non mi convincerai, Marco. Devo dirti la verità. No. Io trovo vergognoso, lo dico anche oggi, perché nessuno si scandalizza per questo. Basta perdonismi, basta provvedimenti di clemenza, basta Papa su queste cose, basta Presidente della Repubblica che vogliono la grazia, l'indulto, l'amnistia, basta queste cose. C'è un classico esempio, i due capi assoluti di questa cupola di Roma, di mafia, di ricatti, di tangenti eccetera, sono stati uno graziato da Scalfaro e l'altro ha ottenuto ben tre condoni. Doni ha fatto pochi anni di carcere rispetto a quelli che deve fare. Tutti e due, chiaro? L'ultima, mi spieghi perché non ti convinco sulla pena di morte? Cosa c'è di male? La pena di morte no, dai, non mi piace. Perché la pena di morte è un perbenismo, perché gli errori ci possono. quello che il pedofilo ha stuprato una bambina oggi, domani io sono padre di famiglia, domani sei libero può stuprare la mia di bambina. Sì, cioè, ho capito, ma ho capito, però il problema è che ti puoi sbagliare. No, non è una vendetta, evita. Vabbè, tu dici il pedofilo, pena di morte per il pedofilo. Bene, fermi tutti. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Alla fine tu non partecipi, non aderisci. Ma quale sciopero? Io non so manco quando è lo sciopero, non mi interessa. A me gli scioperi non mi interessano, sono solo dei grandi perdite di tempo. Speriamo che blocchino tutto domani. Ma che blocchi? Vado in motorino, che cazzo me ne frega. Blocchino tutto chi? Anche la radio. Ma quale radio? Ma ti pare proprio? Non si va in onda. Ma quando mai? Ma non esiste. Bloccato tu, fermi per un giorno. Sei veramente un poveraccio. Sono bloccato per un giorno e chi se ne frega. Ma sei veramente un poveraccio, ormai sei ridotto veramente ai minimi termini. Guarda, sei ridotto ai minimi termini. Pur di non lavorare faresti qualsiasi cosa. Ma tu. Ma non è quello, è proprio il principio. Tutto blocca, guarda, vederti lì. Io, a me che me ne frega. Cazzo. Ma mi divertirebbe da morire, guarda. Ma tu arrivi e non ci sono i. Vabbè, comunque domani sciopero. Solo che a un certo punto Lupi aveva, il ministro dei trasporti aveva precettato i ferrovieri. Ha tolto la precettazione, ha calato le braghe. Siccome conto. Renzi ha detto il diritto di sciopero è sacrosanto, che è una delle più grandi banalità e generalizzazioni che si possano fare, lui ha revocato la precettazione dei ferrovieri. Fatto bene, giusto, meno male. Mamma mia, ma qua ci vorrebbe Reagan. Ma no, 100 Reagan che mandò. Tutto fermo domani. Mandò i piloti militari contro i piloti civili che scioperavano, mandò i militari e tutti gli aerei cominciarono a funzionare e la gente si è potuta spostare tranquillamente. Ronald Reagan, un mito, una leggenda, altro che questi stracciaculi qui che non hanno manco il coraggio di andare fino in fondo. Dai, su Domenico da Napoli, dai Domenico. Ciao, salve. Senta, sono un tuo assiduo ascoltatore, però all'inizio della trasmissione ho sentito che hai paragonato il nome di Piano a... Ma sì, ma è una cosa che dico da un anno e mezzo, non è mica la prima volta, cioè, è un anno e mezzo che dico questa cosa. Pronto? Qui, che è meglio avere Razzi in Senato piuttosto che Piano tutta la vita. No, è inaccettabile questa cosa. E allora si faccia eleggere, i senatori a vita già sono un abominio, e in più, non è praticamente non è mai presente perché crede che sia tutto inutile, ha fatto lo studio, l'atelier nel suo ufficio al Senato, invece se uno fa il senatore a vita deve partecipare giorno e notte alle sedute del Senato, giorno e notte, e poi bisogna ben vedere questa storia della rivista, dove ha messo il figlio, da dove vengono i soldi, eccetera. Comunque. Vabbè, ma qua si parla praticamente di una persona che ha portato il nome dell'Italia nel mondo. Beh, ma chi se ne fotte? Ma va benissimo, io adoro Renzo Piano. Allora, questo palazzo qui meraviglioso dove trasmettiamo, allora. Portiamo avanti la canzoncina praticamente di Razzi. Ma guarda, non c'entra niente, sono due cose diverse. Senti, amico mio, no, sono due cose diverse. Allora, Domenico, il punto fondamentale è uno. Noi siamo qui al Sole 24 Ore in un palazzo costruito da Renzo Piano, un palazzo meraviglioso. È un artista pazzesco, è un architetto formidabile, è un uomo che è meraviglioso da questo punto di vista, è uno che ha fatto un sacco di soldi, giustamente, ricchissimo, giustamente ha fatto un sacco di soldi per la sua arte, per la sua creatività, per la sua competenza, tutto quello che vogliamo. Però col Senato non c'entra una mazza, non c'entra nulla, vuole fare propaganda all'Italia. Razzi. Ma Razzi è stato eletto due volte con le preferenze, peraltro. Due volte con le preferenze e una volta senza preferenze. Già questo. Ma ho capito, ragazzi, questa linea che trasmettiamo, lo mandiamo all'Isola dei Famosi. Lo facciamo fare. L'Isola dei Famosi non ce va. E le mandiamo a manetta nel periodo di Natale. Ci rendiamo conto, cioè il livello di indignazione. Ma indignazione di che? Ma dai, su, ma non c'entra niente adesso. Come indignazione? Cioè, io mi devo sentire Razzi che mi canta praticamente in questo periodo di crisi, non arrivo a fine mese, ma stiamo scherzando. perché a me mi bruciano, cioè io faccio i salti mortali per arrivare, io arrivo, faccio i salti mortali, esatto, per arrivare a fine mese, mi sento questo idiota che non, praticamente mi dice ho bisogno del rimborso spese, ma veramente stiamo facendo, e paragoniamo questa entità, questo essere a Renzo Piano. Ma questo non c'entra nulla, dai, ma sono... No, no, è che la canzone ha ragione, hai su una questo visibilità, punto. Hai una visibilità, cioè, diciamo così, ha un quantità... Ma è una vita che lo dico, è una vita che lo dico, al Senato, se proprio uno deve scegliere, prego, meglio c'hai. Razzi di Piano tutta la vita, adoro, quello ci va al Senato, quello ci va, è presente, quell'altro non fa una mazza, fa iniziative sue, la rivista, l'atelier, ma dai soldi in giro, ma chi se ne frega? Gianni, quello che manca all'Italia è la progettualità, la visione futura. Portare avanti un concetto di architettura è già un piccolo passo. Ma va bene, ma perché lo deve fare come senatore a vita? Lo facesse come privato cittadino? Perché devo dare i soldi a lui come senatore a vita? Lo facesse come privato cittadino? Allora, la mia... Dai, basta ragazzi con questo discorso, è un anno che... dal paragone tra Piano e Razzi, e mi devo sentire questa canzoncina che non si può sentire. Me lo devo sentire dire che gli danno €1 milione per andare all'Isola dei Famosi. Ma che €1 milione? Ma di che stai parlando? Ma hai ragione, però, che è l'elogio veramente. Aspetta che te la faccio. È l'elogio del niente. Che te lo faccio sentire. Senti che te lo faccio sentire. Te la faccio non sentire. Ti prego, no. Te la faccio sentire così ti incazzi ancora di più. Domenico, dai, dimmi qualcosa, Domenico. Non me lo fa sentire. Cioè, veramente. Aspetta, senti. Sono stato eletto senatore, anche perché di fame si muore. Beh, Domenico, dimmi qualcosa. Sono senza parole, cioè mi altero, non lo posso sentire. Incazzati. No, più di questo non ci riesco, perché sennò divento volgare, veramente divento volgare. Cioè, è incredibile, veramente incredibile. Non riesce a arrivare a fine mese. Canta! Chi è che non riesce ad arrivare a fine mese? Questo Razzi che dice nella canzoncina, fammi arrivare a fine mese, non riesco a... l'elogio del nulla. L'elogio del sotterfugio. Il mutuo di Razzi scade adesso. Alla fine di dicembre, cioè alla fine di dicembre, Razzi paga l'ultima rata del mutuo. Questo è fondamentale, Lorenzo, è fondamentale. Cruciati, ma tu no, ma hai capito che... Ma tu, voglio sapere, tu cosa ne pensi? Cioè, una persona del genere, tu io... cosa ne pensi? Ma lui non gliene frega niente di nulla. A me, ma figuriamoci, Razzi è un amico, no, Razzi è mio amico, per cui è diventato mio amico, sono vado a cena fuori con lui, è un genio totale per me, un genio assoluto, è uno che si è fatto un mazzo così per tanti anni, è entrato al Senato, non fa né più né meno di altri, è uguale, stessa, non fa né più né meno di altri. E allora su questa logica portiamo tutti quanti in Parlamento. Tanto allora, ovviamente prima ho detto i piloti, preso dalla foga su Reagan, ho detto i piloti, Reagan sostituì in realtà i controllori di volo con i militari, che erano dipendenti federali, li sostituì con dei militari, non i piloti ovviamente degli aerei, erano i controllori di volo, chiaro? Domenico, grazie, andiamo a Roma, Vito. Ciao ragazzi, io sono reganiano come te, tra l'altro. Reganiano, sì, beh, reganiano, sì, reganiano, sì. Adesso per questa cosa reganiano, mica per tutto magari, no? Comunque, No, un po' per tutto. Però volevo intervenire in difesa di Razzi, perché mi danno un po' al cazzo questo verbenismo, quando non conosco Razzi ovviamente, quando è un uomo che ha lavorato 40 anni e si è fatto il culo nelle acciaierie, quando è stato eletto due volte con le preferenze, come hai detto te, e una senza, e quando abbiamo dei sindacalisti che magari... Aspetta un attimo, fermo. Pronti? Efe? Dimmi. Ma sei libera adesso? No. Staranno lavorando, dai. Lavori? Tu hai un nome? Lo sai come si parla al telefono? Uno dice, io Francesco. Sono Giovanni Paolo. Francesco, scusami. Sì. Francesco, scusami. Che stavi dicendo, Vito? No, è che mi indigna molto di più. Aspetta un attimo. Vabbè, perché ti indigna di più il sindacato, Vito? Non ho capito. Perché è guidato da sindacalisti che magari non hanno fatto un cazzo nella vita, sono stati messi là magari dai partiti e bloccano un paese. Questo invece si è fatto il culo per 40 anni, poi ha deciso che voleva fare politica. Non è capace, sti cazzi, è stato eletto due volte con le preferenze. Allora, per me ha molto più diritto uno come Razzi, che viene eletto e che si fa il culo per una vita, di gente che magari non ha mai lavorato un cazzo e blocca città, paese e tutto il resto. Ricordo a questo ascoltatore, che evidentemente non sa un cazzo, ma poco male, che non sono i sindacalisti che bloccano il paese, sono i lavoratori che aderiranno forse allo sciopero generale di domani, non i sindacalisti. Parenzo, capito? Non ci prendiamo per il culo. E i lavoratori perderanno la giornata di lavoro, Parenzo, quindi non è che vanno a divertirsi. Cioè, ma tu sei a favore dello sciopero generale di domani? Assolutamente. Nel merito, si blocca tutto benissimo, non mi interessa, vado a piedi sempre io. Primo, secondo, lavorerò comunque, quindi non è che sono partita IVA, non è che sono dipendente che dici faccio sciopero. No, ma d'accordo, sì, ma non si capisce il motivo contro il Jobs Act, che manco è stato... Sì. No, c'è anche tutta la questione del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, c'è tanta roba, beh, fondamentale. È più complesso. Un insegnante che prende 1200 la gente non è proprio degli scioperi, non ne può più, domani la gente deve girare, siamo sotto le vacanze di Natale. Un insegnante che prende 1200 euro al mese non si mette a cantare la cosa. Fermo, pronto? Pronto, come va? Efe, ciao, come stai? Buonasera a tutti. Poi dopo il programma vieni da me stasera? No, Efe, no, stasera non posso. Posso chiederti una cosa? Ho sentito il reportage di Selvaggio Lucarelli che ancora ha detto che quando stavate insieme a te piaceva piaceva l'idea che lei facesse qualcosa con un altro uomo davanti di te. Ma no, ma non è così, non è così. Ti è stata questo due settimane fa, poi ho dimenticato che ti è stata raccontata male la cosa. Ha raccontato proprio lei. Ma non ha affatto detto questo. Sei porco, lo so, io sei un porco. Vai a rileggere. Con me sei così. Ma con te non ho mai fatto nulla. Non ho mai volta mi hai fatto vedere, tipo, mi hai fatto scopare con una. Ma non è vero! Ma non è vero, ma sei pazzo. Ma sei impazzita. Scusami, Efe, però noi vogliamo sapere una cosa, a parte queste cose. Ma che schifo, ma chiamami in tema. Ma Efe è una schifosa, guarda. Del grado. È degrado assoluto. Io voglio capire una cosa. Efe, no, ma io non ho fatto mai nulla, è lei che si sta inventando tutto. Ma sì, ma non posso raccontare tutta questa cosa. No, non raccontare. Se non ci fosse stato nulla. Ecco, appunto, non raccontare niente. Io voglio capire, ma veramente te ne stai per andare in Turchia? Ma perché vi interessa così tanto? Mi amate così tanto? Io ti amo, no, ti adoro. No, a Parenzo non gliene frega niente. Ma è vero che stai... Andrò in Turchia prima che riesca a fare qualcosa, qualche cambiamento epocale qui in Italia. Vabbè. Mi faccio a pezzi, mi faccio picchiare, mi faccio arrestare, ma prima o poi faccio capire a questi teste di cazzo che guidano che fanno andare avanti questo paese che la prostituzione è un lavoro, deve essere un lavoro. Ma Renzi non ti dà retta, come... Renzi non ti dà retta. No, anche lui ma sì, dammi domani magari mi spoglio davanti. Vabbè, basta, fai qualcosa di diverso, altro ormai già ti No, allora facciamo insieme qualcosa. Tu vieni domani davanti tutti, per esempio, primo cominciano, mi sembra, dal metro, no? No, davanti, ma intanto è Salvini. L'amore davanti. No, tutti, ma adesso, no, assolutamente no. Scusami una cosa, ma intanto è ma Salvini che si spoglia. Intanto è Salvini che si spoglia. Ah, io Salvini lo amo, ti prego, non toccate Salvini, io lo adoro. Lo adori. Perché sembra un uomo turco, ma è vero. Ma te la faresti una storia con lui? Sì. Se già non l'hai fatta. No. Comunque sì, lo farei. Ma quelle foto ti sono piaciute? Quelle foto con Salvini mezzo nudo? Sì, vabbè, però non si vedeva niente. Dai. Sì, ho visto, ho fatto anche la foto proprio il giornale lì con le mie, cioè, insomma, che tenevo. Ho anche scritto cioè, per dire cosa non ti farei, Salvini. Ma non capisco perché ha avuto le necessità di fare delle scatti di questo genere. Non lo so. Ha perso la testa, secondo te? So. Ha perso un po' la testa o no? Non lo so, no, spero che non sia gay. Perché dici? Ma non lo so, perché un uomo all'improvviso al mese di dicembre fa delle scatti nudo? Non capisco perché. Poi, tra l'altro, quelle che fa è Salvini, cioè, come dire, hanno comunque un partito abbastanza conservativo, no? Non è un però partito... scusami un attimo, ho capito che dici un partito conservatore. e dunque i suoi elettori. Vedi che questa non è un'analisi sbagliata di EFE, ma veramente io ho letto in questa cosa che hai fatto, no, per il giorno. Vada a fare le sue mascherate lì in Turchia, Istanbul. Ma ecco, Dakar, ma c'era scritto che tu veramente hai portato un sacco di roba già in Turchia, soldi, altre cose. È ovvio, e cosa dovevo fare secondo te? E come l'hai portato i soldi in Turchia? C'era pisello e il culo messo proprio dentro le mutande. Ma veramente? Veramente? Sì. Ma quanti soldi hai messo? Si può mettere fino a 9.999 euro. Non ma dai, dimmi quanti soldi hai messo, dai. Ma io ho messo 9.999 euro. Ma allora sono 2 euro, è poca roba. Cazzo, sono andato più di 20 volte in Istanbul. Ah, poco a poco, quanto hai portato in tutto? Ah, perché dovrei dire queste cose? Ma perché dici sempre tutto, devi essere trasparente. Ma perché tra l'altro, la cosa è molto bella. Quando vado in Turchia io prendo l'aereo che c'è alle 6.45 da Malpensa, in sì. cui i poliziotti dormono, perché io passo alle 5 dal controllo, non c'è nessuno, non c'è neanche taxi, non c'è nessuno, cioè puoi fare quello che vuoi. Poi invece quando ritorno dalla Turchia prendo l'aereo di 8.40 che arriva qua alle 11 a Malpensa, sì. cavolo, mi fermano ogni volta quando ritorno, dico ma scusate, ci deve essere veramente un sbaglio, perché... Io non sono scema, ti apporto soldi in Italia, magari avrei portato per Italia a Turchia. Allora dico, come mai mi fermato? Mi fermano antidroga, mi fermo la finanza, per controllo. Tra l'altro sono vestita color fosforescente, capelli rossi, pieno di profumo. Cioè, io dico, ma veramente... Scusa un attimo, ma fammi spiegare una cosa, adesso abbiamo il traffico, poi torniamo, perché questa, sì. questa cosa è da indagare, Parenzo, è da informare subito la Guardia di Finanza, subito! No, sto scherzando, tu praticamente quando vai a Istanbul ti nascondi i soldi nelle mutande. Nascondo no, ogni persona che viaggia dall'Italia a un altro paese può portare fino a 9.900 euro. Allora che li nascondi a fare, scusa, che li nascondi a fare? Non ho capito. Che li nascondi a fare allora? Ma magari mi rubano, allora nascondo lì, sai, all'improvviso qualcuno mi può stuprare. Ma quanti soldi hai portato in Turchia? Magari posso fare un pompino a qualcuno perché mi piace e magari mentre lo faccio il pompino magari con un altro mano potrebbe rubare questi soldi, allora io sticco lì. Ma è una porcheria questa, una porcheria tremenda. Traffico, un attimo che torniamo, aspetta. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Già, sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Allora, qualche ascoltatore, poi torniamo un attimo con F Ball, tra poco vi presento, caro Parenzo, peccato che non sei qui, se no venivi sommerso. La signora è in studio, la signora? Sì, quella che stai vedendo nella webcam, collegatevi tutti con la webcam, perché ci sono i seni, le tette più grandi d'Italia qui, che ci sono venute a trovare le tette più grandi d'Italia, amici miei, qui alla Zanzara, sede della Confindustria, caro Parenzo, dillo a voce alta anche tu, dillo. No, io quello che sto guardando in streaming, diciamo, su piccolo. Esatto, iPad, bravo. Collegatevi tutti con la webcam e avrete, come dire, live il seno, per dirla in maniera gentile. Questa triangolazione. Più grande d'Italia, più grande d'Italia. Secondo me è più grande d'Italia. Credo che ci sia questo record da parte di una signorina che fra poco vi presento. Record assoluto, non come quello della signora Efe Ball. Efe, tu ce l'hai piccole, dai, ce l'hai piccole, molto piccole da questo punto di vista. Cara Efe, però vorrei dirti una cosa. Allora, tu devi dare 700.000 euro al fisco, 700.000 euro, ma come diavolo fanno? Non darai mai questi soldi al fisco, perché tanto ti stai portando tutti i soldi all'estero, sbaglio. Ripeto per un'altra volta, finché in Italia la prospezione non verrà regolarizzata, io non penso di pagare nulla, anche perché mi devono far capire quali altre prostitute hanno mai nella loro vita hanno pagato le tasse in questo paese che chiedono questi soldi da me. Perché io sono colpevole, ho messo soldi, ho investito i miei soldi comprando gli appartamenti, aprendo il conto corrente. Ma perché ti piace? È vero che ti piace Putin? Mi piace Putin, sì. Un presidente di consiglio deve essere come Putin, come Erdogan. Cioè? Questi qua, quando... Cioè che hanno le palle, dici tu? Ma hanno le palle, hanno una potenza incredibile. Tu immagini Renzi, sì. che è una che mi parla, scherza come un bambino, come un ragazzino. Non considerei neanche come un cliente, neanche. Addirittura? Cioè non lo prenderesti come... No. Ma sì, guarda, ti immagini Letta, no? Fino a 6 mesi fa aveva mai Letta. Un giorno si innamora Letta... Si è incavolato, se n'è andato via. Adesso chi lo vede, chi fa? Vabbè, ma che fa c'entra? Ma c'entra tantissimo. Uno che fa, per esempio, di costruire un paese come l'Italia, dovrebbe essere un uomo che ha la potenza, una... dovrete ma la potenza in che nuovo. Senso? Scusa, la potenza. La potenza è anche in quel senso lì. Insomma. Vabbè, adesso non è che tutti devono essere come Putin, come, ma come Salvini. Dai, le scusa. Tette piccole, tette grandi. Ma la ragazza come si chiama lì con le tette piccole? Francesca, adesso dopo ti dico il coso. Ma che ti interessa? Scusa. Quanti anni ha? Quanti anni ma ha? È più giovane di te. Il cliente avrei bisogno, no? No. Che magari uno dice, con il pisello più famoso di Italia, no. Vorrei anche le tette più grandi di Italia. Ma no, ma costano troppo. Vabbè che i soldi tu ce l'hai perché hai fatto tutti i soldi in nero della prostituzione. Ma i clienti ce l'hanno soldi, quindi magari uno potrebbe dire... Vabbè, Efe, io voglio capire una cosa, scusami un attimo, ma alla fine, ma ti hanno chiamato per fare l'Isola dei Famosi per caso, no? No, non mi hanno, ma a loro non interessa perché tutti mi vedono come una prostituta molto famosa, non sanno che io non ho un contratto con il mio lavoro, che se qualcuno mi dice... Vabbè, questo è chiaro, non è che c'hai i contratti, adesso no, che vuoi pure i contratti. Per te, per me, chiaro per te e per me, loro hanno paura di me, perché io faccio questo lavoro, ma per chi loro... Ma chi ha paura di te, scusa? Hanno una paura di... Ma chi? Di offrirmi un lavoro, che sia in televisione, che sia in radio, che sia in un giornale. Ah, adesso tu stai facendo, ma scusa, ma hai guadagnato non so quanti soldi hai guadagnato in tutto? Tantissimi soldi, ma non è appunto questo, non è importante, allora, che non ti è frega? Guadagnare per una trans o per una prostituta, importante è avere anche una vita normale per me, soprattutto ora, perché vabbè. Ho fatto già tantissime cose nella mia vita, mi ci manca vabbè, comunque la cosa fondamentale un'opzione di lavoro, ma è vero che vabbè, normale. Adesso vuoi pure un lavoro, ma fai la prostituta da una vita, guadagnare un sacco di soldi, basta, che lavoro vuoi fare? Ma no, ma cosa c'entra? Una vita apri un bordello in Svizzera, vai a aprire un bordello in Svizzera con tutti i soldi sì. Che hai fatto, scusami, in dai. In Turchia ci sono bordelli, io con le Iene voglio offrirgli un viaggio con la truppa di le Iene, voglio sì, andare pure. In Turchia, voglio far filmare tutti i bordelli che ci sono, pago le tasse. Per voi la Turchia è vabbè. Dietro 50 anni, invece lì ci sono bordelli. Sì, ma non ho capito, tu hai lasciato... Ma adesso sei nulla tenente, che vuol dire nulla tenente? Non ho più niente a parte il mio pisello che mi dà soldi. Vabbè, quello vabbè. Non hai più nulla nel senso che hai portato tutto all'estero? Hai portato tutto all'estero? Ma non avevo tantissimi soldi. Quelli che c'hai li hai portati soldi. Tutti all'estero? Tutti all'estero se messi dentro ma qua? All'estero io ho doppia cittadinanza, è normale che porti in Turchia. In Turchia. Gabbando la Guardia di Finanza con tutti i viaggi. In, vabbè. In Montenegro o piuttosto in Svizzera o piuttosto Liechtenstein o qualche altra parte. Io sono nato in Turchia, ho doppia cittadinanza, è normale che ho cambiato la mia residenza per Turchia. E non abiti più a Via Turati? Non sei più a Via Turati? Ma io sono in Via Turati, tra Via Turati e la Turchia, è normale. Sono una ragazza internazionale, cioè le chiedo internazionalissimo. Tu hai la doppia cittadinanza? Lo sai no, quante io no, cose no. Ti può offrire? Hai visto? Lo so. Ho doppio sesso. E allora sei privilegiata. Ho doppio sesso. Vabbè, che vuoi dire? Doppio sesso e doppia cittadinanza. Che vuoi dire a Salvini? Di una cosa a Salvini sul fatto che sia spogliato. Pure. Salvini, sinceramente non ho capito perché ti sei spogliato, ma sei mitico, ti voglio bene. Tu non sei razzista, tu soltanto insomma, no, ma ti è piaciuto? Ti è piaciuto sì. Nudo? Ma sì, un uomo come un uomo, non è un super figo, non è depilato come tanti vogliono essere, un uomo normale. Un uomo normale, un uomo 40 normale. Anni e bello, e tra l'altro somiglia anche un uomo turco, perché ha capelli neri. Ah, somiglia pure a un turco. Ma distrutto pure Salvini. Distrutto Salvini. Distrutto Salvini. Un po' di pancia che mi piace, perché un uomo dovrebbe avere anche un po' di pancia. Vabbè. Un uomo come un uomo, perfetto. Distrutto non è come Salvini. Magrissimo. Tu sei magrissimo, per esempio, non mi piace. Quando mi scopri mi fai male. Ma io non t'ho fatto male, non sono mai stato con te. Ma non sono mai stato con te. Ma dai. Basta, non sono mai stato con te. Finiamola con questa buffonata. Non sono mai stato con te. Ciao, ciao. Ma figurati. Ciao, ciao. Buffone. Allora, ho qui di fronte a me, caro David, peccato che non ci sei, adesso faremo sentire anche un ma po' di ascoltatori. Io frequento brutti, frequenti. Ma io non sono mai. Allora, lo voglio dire, però, perché la signora Ball, la signora Efe Ball, che è una mia amica, nel senso che l'ho incontrata due volte in vita mia, una beh, volta. Ma si è capito da quello che ha detto. No, una volta delle... qui l'ho incontrata, un'altra volta l'ho incontrata a firmare il referendum per la legalizzazione della prostituzione insieme a Salvini. Ma per me puoi frequentare quel che ti pare, cioè voglio dire, se hai fatto l'amore con la signora Efe ma Ball, non l'ho fatto, lo direi, non l'ho no, fatto. Ma non l'ho fatto, non perché. Ma veramente una porcheria. Ma a parte che sei veramente snob, da questo punto di vista, perché dovrebbe essere no, una porcheria? Ma non mi, mi pare che se veramente. Allora, ma io voglio dire una cosa: qui di fronte a me, io ho il seno barra tette, per chi vuole utilizzare questa parola, se no se ne può utilizzare. È degradato ormai. Sì, degradato. È un degrado totale questa trasmissione. E che la signora no, Francesca Cipriani. Ma non so, no? Francesca, aiutami tu. Ciao. Buonasera. Buonasera. A tutti. Allora, che misura è quella la che hai? Spiegami. Una settima. Settima. Potete vederlo adesso anche in webcam, potete vedere webcam, la settima, diciamo, potete vedere coperta il calendario che ha fatto, un calendario 2015 che Parenzo tu dovresti metterti in camera 2015 c'è, però è veramente troppo finto questo seno, eh. È veramente troppo no finto. È troppo, no, ma è sodo, è alto, no, mi vabbè, piace, ho capito, ma Francesca dai, su, ma è un'esagerazione, è un invito a rifarsi tutto questo, no questo. No, no, non è un invito che ma tutti devono rifarsi però, assolutamente, io sono contenta, ma la misurazione dico... misurami un attimo il coso, la misura della circonferenza, cioè non arriva questo righello, è piccolo, arriva fino a 30 centimetri, cosa faccio? No, beh, ma ho 100 qui, 100 cioè sì, di larghezza 100? Sì. Cioè da una cosa all'altra 100, non ci arriva il righello? No, ah no, da qui a qui un attimo. Sì. Sì, 30 centimetri dovrebbe essere. E in lunghezza, scusa, dalla base fino alla... da dove diciamo misura? Sì, da qui, quant'è? Ma non si piega, come si fa? Piega. Sarà 30 anche qui. A 30 centimetri, capito? Perché è un quadrato, No, perché è 30, diciamo, dalla parte superiore fino all'estremità. Scusate se vi interrompo, però questo si chiama comunque radio, capisco quello che... Come state armeggiando lì? Posso intuire. Allora poi adesso misuriamo bene, un po' di ascoltatori e misuriamo, calendario strepitoso dove potete vedere e tutto. E chiedo anche scusa se ricordo che magari sì questo momento è ancora al lavoro perché mi hanno detto che fino alle 22 non esce, ma magari c'è un ex. Però di qualcosa tu, che... di qualcosa signor no, Squizzi che magari c'è anche Bomba 6 ad esempio, non è più nella coppia, che però è Bomba 6, o sea Marcegaglia. Sai che ci sono delle persone che mandano delle mail a tutti dicendo è una porcheria quello che succede, ma noi è la vita reale, la vita normale, prostitute. Sì, ma io immagino la scena, ma niente, Squizzi comunque lavora fino alle 22, me l'hanno detto, quindi per fortuna non ha mai sentito niente. Però invece c'è Marcegaglia, ultimamente si occupa di esteri moltissimo, quindi esce però tutti i giorni dall'ufficio alle 8:22. Ma che ne sai? Scusa, che ne sai? Io so, ti sto dicendo, allora, 8:22 esce, e che è l'orario in genere in cui vengono trattate all'interno di questa trasmissione, è lo spazio diciamo più precipuamente dedicato a questi temi, a questi temi. Ma questo è un grande tema, perché se ho Cipriani, tra l'altro io so la come ti siedi lì, come ti il sedere va bene? Cioè, sì, no, sono stata anche risarcita, cioè ha preso finalmente anche 60-70 mila euro, mi hanno detto 60-70 mila euro dal chirurgo, anzi, che le ha rifatto il culo male, un attimo solo che ci abbiamo il culo male, scusi signor Squinzi, aiuto. Pubblicità, aiuto. Che traffico, borsa. Intanto Parenzo, ci siamo accertati che la ristrutturazione del sedere, perché si era rifatta anche il sedere della signora Francesca Cipriani, che fatto bene a usare il termine ristrutturazione, perché sia mai che si è messo in macchina, almeno pensa che parliamo di IMU, di TASI, di ristrutturazione di mobili e sgravi fiscali. Esatto, quindi, magari si confonde, diciamo, no? Magari si confonde. Esatto, magari dice distrattamente. Invece è la ristrutturazione del sedere, esatto, perché voleva farselo, perfetto, non si capisce, questa è veramente una cosa incredibile, perché uno si può rifare tutto, ma non ma il sedere. Ma tantissime ce l'hanno rifatto. Vabbè, tantissimo, ho capito. Nel mondo dello spettacolo, sì, sì. Si paga l'IMU, la TASI? Comunque. Tutta quella roba che si è messa, si paga l'IMU, no? No, ma poi ha dovuto toglierle, ha avuto dei problemi. No, ma tutto lui dice, si pagano tasse in più, si dovrebbero pagare delle tasse in più, Parenzo. Solo quello ci manca, sì. Siccome ne abbiamo poche, aumentiamo ancora. Io metterei un cartello, sai come si mette nei camion, trasporto eccezionale metterei. Ecco, ma non è così, cioè avere queste dette, fare questo calendario, perché io attaccherò chiaramente a casa, calendario meraviglioso, perché poi è un calendario culinario, devi sapere Parenzo, è evidente, che, è evidente che della cucina non frega niente a nessuno, questo mi pare scontato, le singole ricette, sono delle foto, no, la cosa sono le tette della signora Cipria, ma adesso la domanda fondamentale che mi fanno, ma tu pensi di avere più cervello o più tette? Più cervello. Più cervello, vabbè. Sì. Dai, chi mi conosce lo sa, no vabbè, chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce il mio personaggio, no è ovvio, chi mi conosce, capito, per quello questa che è la risposta, che do in televisione, voi che mi rompete le scatole, voi mi rompete le scatole su questa cosa, la risposta è questa, il calendario ve lo dovete prendere e attaccare, perché insomma può servire, cioè non mi ritengo sciocca, una ragazza sciocca, capito? Non sono una ritiene, ragazza Parenzo, non si ritiene, cioè, però vai a cascare negli scherzi delle Iene che ti hanno fatto, hanno fatto andare alla festa di coso là di Clooney, dai su pure tu alla festa del matrimonio di Clooney, sei andata lì a cascare con tutte le scarpe. ma io li accetto, gli scherzi, sto al gioco. Ma insomma, ti sei incazzata? No, no, no, no, no, assolutamente. Non mi arrabbio. Senti, Parenzo, allora abbiamo fatto la misurazione definitiva, che il righello non basta, il righello che abbiamo noi da una 30. No, da 30... non vedo, perché mi è saltata la connessione. Beh, sei incazzata come una bestia. Questa è la realtà. No. Ma non è troppo ingombrante avere queste no, robe? No, io mi trovo dai, bene. Sulla notte, perché qual è la cosa più difficile? No. Avere questa, la settima? No, magari quando si fa attività fisica sul tapirulan, che bisogna correre tanto. Capito, non potrebbe fare le maratone come è normale, è comunque un peso che c'è, però io lo rifarei. Beh, di nuovo, sì, cioè, mi trovo bene. Pesano? Hai pesato qualche volta? No, però sono una ragazza comunque in carne. La pesatura delle... questo è interessante, peccato che non c'ho qui una cosa, la pesatura, no, solamente delle tette. La non pesatura. Lo so, non lo so, anche dovremmo qui, provare, c'è la bilancia. Qui. Vuoi dire qualcosa a Squinzi, Parenzo? No, volevo capire questo, se ad esempio sì. Il suo carico fiscale è inferiore o superiore al peso appunto del seno, il carico fiscale che lei ha, è se è quantificabile anche rispetto a questa mercanzia che lei insomma propone, insomma... No, no, non è paragonabile il carico fiscale, assolutamente non è paragonabile, no, ma per esempio anche nel sesso è ingombrante questa roba qua. Adesso, ma no, no, ma, sì, ma non è un problema. Gli uomini impazziscono, non diciamo è una malattia. Cioè gli uomini vanno con te solamente per questo motivo qua. No, diciamo, no, no, la prima no, cosa no, che no. Vanno con te dice voglio provare, questo me lo devi concedere. No, vabbè, devi concedere. Tanti uomini si avvicinano per l'aspetto fisico, poi però quando mi conoscono magari si innamorano. Le tette non ci pensano si più. Si avvicinano per basta, giocare e dopo rimangono scottati però. Me ne vado, me ne vado. Parenzo, me ne vado. No. Vabbè, voglio no, me ne vado definitivamente. Voglio sentire no, volevo capire se l'avevano dopo questa intervista straordinaria, se faceva anche un'intervista al programma di Barisoni domani, Focus Economia. Per che cosa? Per l'economia del calendario, l'economia dei calendari. Sì, esattamente. Vabbè, ma no, quello non mi interessa, cioè non è detto che una persona debba per forza occuparsi di quelle cose lì, diciamo, non è detto no, che non è intelligente. Ecco, ma tu come ti definisci nel sesso? Ecco, passionale, cioè una sì, cosa sono che molto ti piace passionale. Molto, ti piace beh, moltissimo. Come tutti gli esseri umani, sono umana no, anch'io. Non di più, di meno. Ma quindi non vai non so già dove volete locale, arrivare, no, non mi interessa. Non mi interessa fare la pornostar, ho avuto tantissime offerte di film, veramente? Sì, Tinto Brass, altre case cinematografiche pure. Anche molto importanti, sì, ho sempre pure, rifiutato. Importanti. Sì, conosciute nel mondo. Non la vuoi fare, non la vuoi no, fare. Non mi interessa, mi piace essere esuberante. Ma mai dire mai, eh? No, mai no, no, assolutamente, mai. No, altrimenti l'avrei già fatto, c'erano offerte economiche molto alte. Ti devo presentare quindi... il signor, quanto ti hanno offerto? Tanto, tanto. Ti devo presentare il signor Razzi, però. Il signor Razzi che è abruzzese come te. Signor va bene, Antonio, viva potrebbe, l'Abruzzo. Ti potrebbe piacere il signor Razzi. Damiano da Bologna. Damiano, dimmi. Sì, io volevo spezzare una lancia a favore di Razzi. Non mi pare che sia quanto di peggio abbiamo nel nostro Parlamento. In che senso? Scusa, spiega. Penso che di personaggi come lui ce ne sono tanti. Magari sono in anonimo, non si manifestano, non vanno in giro a farsi intervistare oppure a farsi... imitare la grossa, però di personaggi cui io personalmente ne conosco almeno 3-4. Cioè? Conosco degli onorevoli dalla mia città, del mio paese, che non hanno nulla da rimproverare a Razzi, che sono più o meno allo stesso identico livello. E penso che se li invitano a Sanremo a cantare, andrebbero pure a Sanremo a cantare. Vabbè, Damiano, ti vuoi dire che non c'è gente, ci sono politici peggio di Razzi? Ho capito. Ma non è che è peggio di Razzi, secondo me Razzi è il medio, ecco. Il medio, il politico medio. Il politico medio oggi vabbè. È un politico come Razzi, cioè dal 94 in poi a destra e dal 97 in poi a sinistra c'è andato tutto. Cioè, gente che faceva le pulizie nelle segreterie del Movimento Sociale allora, si ritrova nelle liste di Forza Italia e diventa onorevole. Chi magari vive nelle grandi città queste cose non li sa. Per me che vivevo in una piccolissima città vi garantisco che è successo anche questo. Va bene, ho capito. Mauro Milano. Sì, buonasera a tutti, buonasera Francesca, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi Mauro. No, buonasera. Mi immaginavo la scena purtroppo. Bisogna abolire buonasera, dimmi. Non hai la webcam, purtroppo, non hai la webcam. Mi immaginavo la scena di lei che armeggia col suo righellino in mezzo a queste due. No, io non ho armeggiato perché volevo. Perché voglio. Diciamo. No. Per adesso non voglio essere cacciato. Non voglio essere cacciato. Già. Un righello da 30 centimetri mi sembra un po' troppo pretenzioso, ma vabbè, detto questo. No, volevo dire. È molto divertente anche la presenza di F. Ball. Che è tutto molto bello, poi anch'io sono un po' sessuologo come lei, per cui mi intriga questa cosa. Il problema è che ogni tanto poi il discorso scivola su discorsi un pochino più delicati. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta Mauro, che devo sentire una persona, che sono preoccupato. Pronto. Direttore? Ma è vero che usi la pillolina blu? Deficiente. No, ma ho letto una cosa. Cosa hai detto? Un'intervista su Dagospia. Una cosa divertente. Ma senti, ma se sei tu, ragazzi, ma hai letto oggi il settimanale oggi e nessuno ne parla? Se io rubo una gallina vado a finire in prima pagina. Se quello dice che è tutta un'invenzione, come stai? Ma bene, scusa, ma invenzione cosa, direttore? Non ho capito. Quale invenzione? Quale invenzione? Settimanale oggi, che hai detto? Ma l'hai visto il settimanale oggi o no? Sì, ho visto, allora? Allora, non c'è quello che... Chi? I tre banditi. Era un'associazione a delinquere. Ah, quindi vabbè, sì, sì, sì, ho capito. Ma spiegami sta cosa della pillolina, che ormai non ti, niente ti eccita. Ma perché ho scritto... come si dice? Ma è vero che non c'è nulla che ti eccita ormai, nulla. Sì, solo voi. Solo noi, Parenzo, solo noi lo eccitiamo praticamente. Lo sai. Solo noi, ma Francesca Cipriani, per esempio, non è una che ti ecciterebbe. Francesca Cipriani, me la ricordo, qual è? Quella alta, magra, longilinea. No, proprio stai sbagliando, direttore, stai sbagliando. Alta sì, però non longilinea. No, quella che ha una circonferenza pazzesca di seno, cioè c'ha la settima, una cosa... Vogliamo come dire, la tettona storica. Sì, storica, adesso sì, insomma, quella si è rifatta la settima, anche il sedere, anche se no, poi è venuto male. Che la storia della pillola blu, io l'ho raccontata nel libro, quando mi hanno fatto sperimentare la pillola blu, per me non mi ha fatto sperimentare. Ah, non ti ha fatto... Non ti ha fatto effetto? Tranne dico che vedevo azzurro, e dunque azzurro Forza Italia. Ma una battuta. Cioè, non ti fa effetto ormai più nulla. Hai detto che ti fa effetto solamente una che sta con Bonolis. La chi è? Ma sai che non la conosco, Paolo Caruso. Ma perché l'hai detto allora? Perché l'hai detto? Perché penso, lei ha scritto su un giornale, credo non l'ho letto. Che è innamoratissima, che abbiamo avuto una storia d'amore. Caspita. Allora, manco l'hai mai vista? Io non l'ho mai vista. Ma allora perché dici che ti eccita solo questa qua? Ma ragazzi, è veramente una buffa. No, dai, brutto, ma scusa, Emilio, ma da quanto tempo è che non lo fai? Che non lo faccio? Mezz'ora fa, credo. Ma dai, su, ma non è vero, dai, su. Sì, no, non lo so, guarda, aspetta, ci sto pensando. Ma sai che passare degli No, ma mi ha colpito anche... quello che hai detto. A volte provo un certo formicolio, un solletichino. Della serie fai un tentativo e provaci. A volte mi sopravvaluto. Il desiderio prevale sul corpo e spesso il corpo non risponde. Prendo il Viagra solo se ho un appuntamento galante. Ma da quando Mediaset mi ha licenziato non ho più libido. Manco col Viagra, ma è vero o no? Ecco, è vero, perché è due mesi che non vi sento più. Adesso che vi sento mi piglio subito il Viagra. Ma dai, su, ma dimmi l'ultima volta che l'hai fatto, dai. Primo gennaio 1955, quando sono diventato professionista. Mamma mia, ma pure il sesso ormai non fai più, non fai manco più sesso, sei licenziato, non fai sesso, c'hai 83 anni e che manca solo che ti ammazzi, dai. No, 83 anni e mezzo. E mezzo, non fai più sesso manco col Viagra, t'hanno licenziato da Mediaset, tutti, non ti si fila più nessuno, e che devi fare? Ma non è vero, mi filate voi, noi ti vogliamo bene, diverso, è istigazione al suicidio, povero Emilio. Io ti voglio bene, Emilio, scusa, ma perché devi dire così? Saluta la signora Cipriani, Emilio. Ciao Francesca. Ciao, come va, tutto bene? Beh, ti vedo da una vita, però. Ma l'avete fatto voi due? Siete stati insieme? No. Tanto figuriamo se lo dite. No, Francesca l'ho sempre rispettata, è simpatica, sì, intelligente. Vero. Tutto grazie. Ecco, è intelligente, ha detto una cosa. Lui che mi conosce, è intelligente. Adesso basta con questa cosa. È intelligente. Francesca è una ragazza adorabile. Grazie. Ma se non ci avesse quello che c'ha, dai. No, io sono uno. Facciamolo parlare. Delle tette ha fatto uso intelligente, non le dà, almeno che ne sappia io, non le dà. Ah, sì, qualche volta le mostra, ma così le mostra a distanza. E tu, voglio dire, dici, mamma, ecco. Però Francesca è molto simpatica. Una è una ragazza. Vabbè. ho un formicolio, che sarà? Ah, ecco, c'hai un formicolio, ti fa venire un formicolio. Ti fa... Adesso ti regalo, ti mando il suo calendario, così altro volentieri. Che formicolio. Ah, ecco, a me non mi manda più niente nessuno. Ti mando il calendario, così no, ti faccio venire un formicolio, dai. Stipendio, non mando lo stipendio, la zanzara non mi cerca, Davide non si fa sentire e almeno... Ti faccio venire un po' di formicolio. Ciao Emilio, ciao, un abbraccio, grazie. Ciao. Ragazzi, che bisogna. Bisogna fare un po' di assistenza sociale ogni tanto, Vero Parenzo, assistenza sociale. Ma è sempre lì la madame? Sì, sì, è sempre qui. Voglio sentire però Mauro da Milano, che era in collegamento con noi. Mauro? Sì, eccomi. Dimmi, caro. Non capisco perché Fede goda così tanto nel farsi massacrare in questo modo, ma contento lui. Sai, ognuno... Vabbè. Dunque... No, stavo dicendo della presenza di F. Bale e della signorina Francesca, che è molto intrigante, perché poi... Dicevo che anch'io sono un po' sessuologo come lei, Cruciani, quindi mi intriga molto. Però poi no, siete semplicemente due maiali, non sessuologi. Però dopo il discorso scivola su degli argomenti che mi fanno girare i coglioni. Cioè, alla balla, dai, fai balla. Ma sì, allora, dopo divento, mi scatta l'intransigenza. Cioè, quando ha detto cosa? Che porta i soldi fuori, cosa? No, quando parla di tasse, di contratti, di cose, di diritti, eccetera. Lì mi scatta l'intransigenza, perché mi sento come se dovessi prendere lezioni da uno che ha fatto il furbino fino adesso. Non ha fatto il furbino, quella le tasse teoricamente la vuole pagare, non gliele fanno pagare. Ma Cruciani, come non ha fatto il furbino? Di che cosa ha vissuto? Dai. Beh sì, tutti i soldi in nero ha fatto, infatti adesso il fisco gli chiede 700.000 euro, ma se uno non legalizza la prostituzione, perché mi devi chiedere i soldi poi, se ho fatto la zoccola, scusa, spiegami. Tu fai la zoccola tutta la vita, dopodiché i soldi non li puoi dichiarare perché non hai una professione, ma perché secondo lei lei li avrebbe dichiarati tutti? Avesse dichiarati, avrebbe fatto evasione fiscale. Allora, ha vissuto di espedienti fino a oggi. Adesso è come se mi sento come se lui dovesse insegnare a me come devo vivere. No, non ci sto. Allora divento intransigente. Fermo un attimo, che voglio chiedere una cosa finale. Aspetta un attimo. Meglio così o meglio magre? Meglio questo o meglio questo dell'anoressia? Meglio questo, meglio sì. Meglio la settima che l'anoressia. Ho fatto il calendario anche perché sono una ragazza formosa e quindi abbasso l'anoressia. Capito, cioè, è un calendario culinario perché il cibo fa parte dell'arte, della cultura italiana. Della cultura, cioè, però la gente guarderà solo... Ti abbraccio fortissimo, non ti posso baciare là perché sennò... Abbasso l'anoressia, combattiamola anche. Vabbè, sì. Parenzo, ti è venuto... Mi raccomando, ragazzi. Ti è venuto formicolio? No, io vado a festeggiare un compleanno. Mamma mia, che tristezza. Venite alla mia festa. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Ciao Francesca, ciao a tutti. Ciao, grazie, buona serata. Grazie. Il vostro è uno show, non è una trasmissione informazione, quindi... Bisogna dirlo agli ascoltatori che non si incazzino, il vostro è uno show e tipo tante altre trasmissioni che ci sono su altri emittenti, intrattenimento. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24. La passione si sente.